Baracchini non è possibile. erano misteri di stati di padre. Ma lei ha detto di quello che ha detto il Ginsberg, e ha detto che è buono comunque. E noi ne abbiamo tre, e le abbiamo trovate così all'occasione, e adesso sto parlando con il Colt, che è proprio piccolino, non è molto grande. Questa stanza ne base non so se la conosco di vero, mi avevi detto di no. Il Colt Black Shadow, che fa MSB. No, se vedi, ho anche una cosa del genere, ho anche il Sokai, quello sui canali, i canali Sokai, quello che ha lo smitter proprio piccolo, piccolo, piccolo, e poi ho anche il Tenko, sempre un sui canali, ma non è proprio sui canali perché lo fa in lettere, A, B, C, D, F, così fino alla S, e comunque funziona bene anche quello. Il Sokai non funziona perché sono oscillati i canali però. Thank you. perché come ho detto non ho il posto e se non lo indica da qualche parte è brutto da vedere. Stata avvantaggiato che mio padre aveva già apparecchi, aveva barattini. Comunque no, non è stato neanche, non avevo neanche quasi antenna, avevo un elettrico in macchina all'inizio con un barattinetto, non mi ricordo neanche il Tomcat 23, mi sembra si chiama, e con quello ho iniziato, poi da lì mi sono spostato in garage, con un Polo ho fatto in casa, e poi mi sono spostato a comprare questa antenna, la Blizzard. Sì, da gennaio. Sì, una cosa del genere, ho iniziato a metà gennaio, fine gennaio, una cosa del genere. Quando stavo già apparati, ho fatto un baule a casa e c'erano tutti i barattini, non avevo neanche tanti, quelli che ho adesso li abbiamo comprati anche da quelli impianti, ne avevamo tutti, avevamo due, una cosa del genere, due barattini. Cosa hai fatto di buono? Ho fatto carne di cavallo e pasta ai frutti di mare. Ah, hai visto? E invece io ho fatto galette di pollo con sughetto piccante, l'insalata e tira gamba. Prima lo sto facendo, se lo ingrasso troppo. E infatti, più poco ne mangi, due di mese è meglio. Sì, vabbè, ho mangiato le patate arrosto ieri notte, se mi è stata dalla vicina a Gogo. Poi, dico, le patate arrosto, ce le presi. Sì, anche farinaccio, è giusto che... è come ti dico, mangi la ministra, amici, vado a stare la glicemia e sta cosa. Sì, la salimo ogni tanto, questa sera quando si sta mangiando patate. Poi, patate non le compro mai, perché se le compro mi vengono i germogli. Mi germogliano perché non li uso. No, non ci vado matto. Se sai cosa mi piace, lo spezzatino di patate, oppure le patate con i carciuffi. Però, fritte così, no... Sentito, l'avevi tu quello che ho aggiustato di quell'amico mio? No, è vero. Mia cuccari, è vero. Vedi quello là, io che lo voglio sentire, che non ho sentito quasi nulla. Adesso voglio il gelato. E sempre mangiando una vaschetta, secondo me. Beh, quale due? Se l'ha visto allo spin. Metà vaschetta avevo mangiato già. Allora c'è una domanda da farvi, mi si è rotta la mascherina, dove posso trovare mascherine? Sono con una mascherina sola adesso, c'ho una di quelle buone, però una mi si è rotta, mi si è proprio strappata. E voglio comprare va buone, buca. Come ti conviene, hai fatto la fare la sarta, quella lavabile già, molto meglio, e sono più protettive là, prova a fatta mia cugina. Trovare qualche sarta che te la fa. Sì, ma tu dove le fai? Eh? Tu da che sarta le fai? Già c'è troppo posto di ecco a bassa, cazzo ci compri di nuda. Da che sarta le fai, ho detto? Da mia cugina. E vai a fatti solo i parenti, capito? Ho capito. No, ma io ho preso quelle monogatte, quelle che si lavavano, le lavavo in varecchina e poi le stendevo e ne avevo di ricambio tre, ma le giravo. Però c'è queste qua che ha fatto adesso l'intera via. Buono sto gelato però, catta. Sono accorto che c'era lo sportello del freezer aperto, perché è tutto pieno di ghiaccio, non credo che va bene, tutta la roba si scongelata. Il mio sbrina da solo, non se ne fa mal di ghiaccio, si sbrina da solo il mio, è autosbrinante. E come stavo dicendo, una vaschetta te ne sta mangiando, no, brutto burco. No, ma me sono detto a fare, me l'ho messo, buono, solamente è buono qua. Mi sento che lo spiva gelati di Drenitz, ma questo qua è veramente buono. No, non me ne sono accorto. Vabbè, attacca quello là che non voglio sentire, sto zocco. No, se va. Adesso l'attacco sta. Chi te l'ha data dal forum l'attacco? Sì, già, ho rompere i coglioni a mezzo Facebook per farmi vedere questo attacco. Ehi, vabbè, dai. Grazie, Luf, mi hai fatto un grosso favore. Dai. Da questo qua dalle 9, ma tu non è che sono qua a casa, a mezzo di quasi a 2 ne arrivi tu, cioè a casa, in laboratorio, no? Poi ha aspettato un altro po', aspetta 2 minuti, cazzo, un'altra ora, ma vaffanculo. Allucinante. Io devo andare a vedere se ce ne hanno da... come si chiama? Le stavano prendendo 6 euro. Per la campagna di Natalino lì. Ne stavano prendendo 6 euro 50 le mascherine, però ce n'erano mi pare 10. Quella farmacia che ti servi tu già, io ne ho prese a 4 euro l'una, che sono lavabili quelle lì. Grazie, ma a 4 euro, e sicuramente vado lì, vado da l'aria e me ne faccio da... Se ne pigli due, in modo che ne hai tre così, c'hai il ricambio, e le puoi lavare, perché quelle fini sono monouso, mi... ti dai di rampagna questa che ti rabboni, ma ti conviene. Ma mi conviene no, tanto chi poco spende più spende, diceva quello. Attenzione Gianni Ruperruse, senti qua questa piccola chiamata che ti chiama, gabba gabba gabba. Attenzione bene, devo cambiare la capsula, ecco il microfono avanti, ho cambiato la capsula. Andava tutto bene, ragazzi, da voi mi si ragazzi salvature, toccava una cola per si sentiva la portante, un casino. Che tu sentito la bevi quello là, quello che gli ho messo le mani addosso io? No! Che l'avevi sentito, mi sembra. Che ho trovato il cacciavite giusto per il trimmer. Ah, ce l'ha perché? No, non questo, quello di quell'amico mio che gliel'ho messo a posto io. Ah, ecco, capito. Luca, parla normalmente, fammelo sentire. Guarda un po', attenzione Gianni, doppio room, 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50, frequenza, vabbè la frequenza quale? Boh, non mi ne chiedo frequenza, no. 27.075. Luca, non sai come ti fa la voce, tipo come se fosse un valvolare, mi per la calda, sembri Luca il caldo. Così ci posso attaccare quello lì, ci posso attaccare anche l'altro, ci posso attaccare quello che vuoi. È capretto. Quando vuoi via te lo prendi, non ci sono problemi, gaba. Se c'è bene, bello Natali, come esce? Di lusso, esce bene. Luca, tu non l'avevi sentito quello là, no? Cosa Natali? Avevi sentito la radio di quello là, quello che gli ho messo il cacciavite nel trimmer? No, negativo. Ah, sì, me l'avevi detto. Cioè, ma con colpi prendo questo apparecchio, No, già è buono. Siccome io vorrei quello che c'è in concessione. Ma me l'hai gatto? Ho omologato, sì. Guarda, dietro c'è scritto CE. Lo vengo, ci avete, aspetta. E qua c'è quindi questa piccola modulazione K. Sì, ma cato CE, sì. Cari, uscisse questo, come quello lì. Io sono rubo in Duca a chi è omologato. Se no perdi l'omologazione. Cioè, ma questo qua c'è la modifica dei 400 canali, no? No, non ho fatto modifica, è normale come Dio l'ha fatto. Ho capito, mezzo qua. Ciao, sono Fraga, senti qua, vita mia, che bello. Senti qua questa piccola modulazione da campagna, cambio. 29.50, bubu. Senti ancora questa piccola radio, K. Sì, che bello, frate, che bello. Chi? Che bello. Chi la viene a prendertelo già? Ah? Sì, quando vuoi, quando ti fa comodo a te. Questo qui, mi sono rilassato 5 minuti, magari fa anche un quarto d'ora, 20 minuti, dai. Ma dove vuoi tu? No, pensavo stessi riposando, non sono venuto prima per quello, capito? Pensavo che stessi riposando. Chieda. E beh, lo carriello, ciao Gianni, e poi c'è anche Natalino. Qui ci sono, Fra, non so se mi senti, perché già lo sai che c'è l'antenna di plastica. Aspetta, conosco Natalino. Radio 5 è qua la mia radio. Cambio. Oh Gianni, che telefono c'hai tu? Io? C'ho lo Huawei. Huawei quale? Non mi ricordo. P10 dai. Ti faccio un regalo dopo. Che regalo? Custodia, vetrino. Tutto c'ha. Dopo mi verrà un po' male a guardare lo sgabuzzino, ma già prendo la scatola, tanto io non me ne faccio niente. Ma vetrino quello che si mette sopra. Sozzo, quello di sopra, quello che si mette in protezione. Okay. Se lo sta staccando e non si sente. Gabba gabba, senti qua vita mia che ti chiama gabba gabba. Passaggio Luca, ti do un rapporto di segnale qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 50, frequenza 27.75, da questa parte Luca, il modulo al monte, gabba gabba. 995, sì. Tu sei 950 qua. Addirittura, non si può sapere. Tu sei signor di Roghi. Gianni, è da te quanto sono. Gianni, sei posto in moto, stavo andando a prendersi la radio. Cappa, io sto utilizzando adesso il 680 con l'MC60, Luca. però l'ho abbassato un po' il mitigli, Chi ha paurato? Tutto il raggio è positivo, che beh, se tu la dai ai vecchi tempi sei durato. Certa gatta. Natalino. Figlia, sono qui. Santiago 9, sì, Natalino. No. E la radio com'è? Ah, la mia radio ti sento benissimo. Qua, non ce n'è. Tua radio è Radio Venere, che beh. Facciamo bene, no, la radio è pulita. Vabbè, non è molto potente, però è buona come radio, Al botte cifra. No, in campagna, che beh. Ah, vai, fini. Tu, sono in campagna, certo, sto andando da Bunderighe. La Bunderighe è fissata bene adesso, sta andando bene, penso, Stai mandando una bombola, bomboletta. Se non mi sarebbe arrivato a fondo scala qua. E in campagna, già si vede dal segnale. In campagna sono, no, non ci sono a terra, sono giù in campagna. Ma già va bene, dai. Già mi ascoltano. E devo mettere la mappa da 5, non una giovana va di piazzare, è già pronta a piazzare. Stai andando per bene, Gianni ci sei, Gianni il caldo, ci sei. A me non mi piazzia con il baracchino gusti, però è bellino, dai, è carino quel baracchino. E c'è bene fra. Ah, sì, sì. Che bello, che bello, frate, che bello. E lui. Andate. Però ascolto benissimo qua. Vabbè, forse la radio è anche diversa dalle altre questa. Chiama, io sono l'ubato di chiama, chiama. Ma buttalo via. E dove lo butto? Sto a casa tua. Ho detto dove lo butto? Sto a casa tua. No, se ne devo. Sono Mondesta, Mondesta, basta che faccio. Di nato tu vai. No, è Mondesta, è nuovo, Ma. Zia. Vi lascio un attimo che... Mi carico la condizionata, mi porto la condizionata della macchina, dai. Riprendo dopo, ciao Luca, ciao Natalino e ciao anche a Gianni, che è quello lì. Riprendo dopo, ciao a dopo. Chiama, zio Fra, siamo qua, chiama. Senti qua, vita mia, vatti Natalino, chiama, chiama. Ciao Fra, ci sentiamo dopo, allora. Tu casi... Ecco. Ah, praticamente abbiamo mandato le connessioni del microfono, però c'era dove invertire solo un filo, forse quel tipo si è sbagliato dicendomelo. Praticamente dovevo invertire il allora la calza che era al 5 c'era il nero. Poi cioè, questo qua stamattina mi ha aperto un microfono uguale a questo baracchino, uguale identico, e mi ha dato i fili, la posizione dei fili. E a dire a paghi sumi. Eh? Segnatela, fatti lo schema, ci scrivi apparecchio e. E allora, fatto, fatto. Questa cosa secondo me va bene anche per il Mobicom. Oh Luca, bastava che tu mettessi il microfono del Mobicom, lì se andava bene lo facevi uguale. Infatti il microfono del Mobicom che gliel'ho messo, gliel'ho adattato io senza chiedere niente a nessuno, piano piano mi sono assillato, funzionava benissimo, mio. Se vuoi te lo faccio sentire. Io ci credo. Ascolta, devo chiudere che mi è venuto un flash e c'è un attacco diverso per l'antenna, quindi devo mettere il PL, perché c'è un attacco che non è PL, capito? C'è un attacco e non c'è un riduttore. Ci vorrebbe un riduttore vite vite, filettatura e filettatura. Hai copiato? Per che cosa? Per mettere l'antenna che c'ho io, perché c'è un'antenna, come te lo posso dire, tipo jack rimane, dai, quello che è al posto del PL. Ma perché cosa avevo questo flettatura? Perché praticamente, non flettatura, allora jack, entrata jack e uscita flettatura. È un casino, dai, da spiegarti un caso. Cioè te lo faccio vedere dopo quando lo faccio. Ok. Chiudo un attimo la parata coppia. Che l'antenino di quel portatile mi capitola e c'ha l'attacco diverso, non c'ha il PL. Ah, con quello lì volevo uscire, ho capito, vabbè dai. Già va bene, questo da 4 watti. E io sono dati 3 invece. Boh, penso che ne dia 4, non lo so. Questo dice 4, dice. Ma non li dà. Io ho le modifiche che si può modificare, non so quanti canali puoi fare, la potenza, però la radio lo stesso, non so se c'è la situazione. E non si può fare, ma cosa si troverebbe di l'omologazione? Io lo dico così come te, Chiccio. Beh, certo. Se già troppo che vale maybe più 4. Se questo microfono non amplifica è perché è chiusa la LC, così è lui. Siamo anche in macchina, andava vecchia. Avanti. Ciao Baracus. Vabbè, sì, segnale 5, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 9. Va, avanti. Praticamente mi accende 5 LED e 2 lampeggiano. Capito. Segnale 4. 9 pieno. Diciamo che lampeggia il 9, dai. Tra il 7 e il 9, sì, lampeggiato, modulato, va. Vabbè, gabba. Natale ci sei. Poi passaggio? Fa poco fa, sì, dai. 5, 7, 5, 9. A me come mi ascolti invece? Oh, Antonè, come mi ascolti? Sto usando un Midland alla 48, quello digitale, com'è? Ho capito, eh? Perfetto, vediamo un po' se c'è Natalino, Natalino, è parito, poi c'è anche Franco Lassorso. Io brecco, io brecco. Avanti. Avanti, io sono Alfa 21, con un'antenna nuova. Sì, sono io, buonasera a tutta la ruota. Sono controllo, dai, fai un passaggio, Antonio, va. Mi arrivi basso, il segnale è 5, però la radio è proprio bassa, perché sento anche QRM, tiro fuori con le piste. No, ci sono, è che sei proprio basso basso. Adesso sei un po' più comprensibile, mi sento un pochino meglio. Prima sentivo molto più QRM, non si capiva, adesso mi sento un po' meglio. È un 4, un 4, 3, 4, però è decisamente al 4. Ok, comunque se tu costa un piatto di poi chi sei, tu, tranne voi. È basso di radio, il segnale già è forte, ma è basso di radio. Riccardino, come mi ascolti con questa radio, bene? 9.10. Ho capito, tu sei 9, vabbè, non accendi tutti i LED, sei 9.20, dai. Ho capito, boh, non lo so che cosa fa, qualche volta è più forte. Non so dire perché, perché ho anche il capo nuovo e non capisco perché scendo il segnale qualche volta. Sì, è anche il tempo, eh. Ehi, e beh Antonio, ma l'antenna l'hai piazzata, sì? Cos'hai messo? Una 5 ottavi, un dipolo. Perfetto, arrivi benissimo. Da quando ti arriva, Luca? Tu l'hai fatta? Mi sento un attimo. Sì. Ho capito, vabbè, sta arrivando bene, là. Vabbè, dai, tutta vulcanizzata, sì, tutta fatta bene, ho fatto un ottimo lavoro. Quanto è lungo? Quanto alto l'hai messo? Ehi, a mezz'ora, dai, va bene, ottimo, ottimo lavoro. Ho capito. Sì, ma i bracci ve li hai attaccati, uno dalla parte e uno dall'altra. Vabbè, dai, interessante che è risolto, perché prima avevi sempre problemi. Allora, se tu sei oltre il 9, proprio non vai a modulare e lampeggia. Tacchiappa, e beh Natali, farà di sì, tutti scappati so. È l'ora della biocco. Ehi, cappa cappa. Cambio, non so se questo qua è doppia potenza, no, sono uscito, allora, via, scan, non lo so, PVL, oh, ma quello modificato, Chi è? Ho detto, quello qual è, quello modificato? La voce di Gianni, 48 plus, no? Che praticamente c'era lo spianato staccato a 6 puli, l'ho curato, dai, gliel'ho sistemato. Ecco, pensavo che era il tuo, fatti addirittura, sei il primo e andiamo. Cappa cappa, frate, una cosa è bella, non ci sono problemi, che bello. Oh, oh, oh, oh, che su, qua. Insomma, c'è un po' di cosa, di... Diciamo, dai. Sei più basso in radio. Sia Nara, lampeggi un po', eh. Insomma, un po' così, sì. Sì, lampeggi un po', dai. Comunque è invariato, dai. E si conferma. Sì. Ok. Perché non ti hai fatto la Game Master? Meglio così, Antonè. Meglio così. Vediamo un po' se ti ascolta Franco Di Sorso. Fra, lo senti Antonello da Ossi? Ho capito. Aggiugavit. Vabbè. adesso mi sa che mi attacco la mia, da questa l'ho già usata, Gianni l'ha sentita, attacco la mia, Antonè, aspetta. Però Antonè, mi senti? Ugo mi sta arrivando, segnale 3 nel baracchino. Sì, sì, nel baracchino sì. Meglio è buona, 4, dai, non è 5 e 5 perché c'è il rumore di fondo sotto. No, vabbè, il rumore di fondo di QRM, no, no, perché c'è il rumore di vento, vai. Segnale 8, quasi 9, sì, dai, cioè, segnale 8 positivo. Perfetto, non andrà bene, di lusso. K. Attenzione, Franco California, ci sei? Io ti copio. Non sono arrabbiato. Ma sei pazzo proprio. Oh, guarda se va bene così, ricordi? Sì, già va un po' meglio. Ma tu sei un baracchino, perché sei così in stato di guerra, ma un bel forte. E tu sei un bel forte per mi correre, già se lo sai cosa, però ieri avanti, siccome stiamo facendo l'ascolto, che non potevo modulare, perché avevo problemi di antenna, poi ho fatto due passaggi con due diversi apparati. Sinceramente non ho capito cosa stavi usando, ti sentivo veramente, ma veramente bene. Oggi però ho un po' di difficoltà ad ascoltarti, la verità. Perché sono capito male, avevi due apparati, col primo era una meraviglia. Anche io ti sentivo bene, non so se oggi ho toccato qualcosa. Deve essere che tu hai visto il valvolare, aspetta che lo attacco e lo faccio riscaldare. Ah, no, non toccare niente, adesso il pezzo che ti sento una meraviglia adesso. Ciao Riccardo, ma andavo non bene di più, adesso sì che ti ascoltavo forte e chiaro. Ho fatto... allora, lo attacco. Deve essere il valvolare che puntavo bene le valvole e che non l'ho lasciato riscaldare l'ultima volta, non l'ho lasciato riscaldare molto perché volevate provare, mi avevate pensato che mi sono entrato e aveva riscaldato solo 10 minuti. Ah ecco, ma non so se tu sei o hai un amplificato o un palmare, non so, la voce è bella amplificata e poi se ne va via, va e torna, ci bisogna vedere. Perché ci sono degli attimi che ti ascolto veramente bene, bello presente, tranquillo. No, deve essere, no, non lo so, perché io adesso sto usando il palmare e quello originale dei sottoposti. Non lo so, a volte è mai vera la modulazione, non lo so perché, lui questo è stato degli attimi che veramente lì, ma è una meraviglia, dai, piano piano che tu stai migliorando, stai entrando nel mondo delle radio, no? Si impara sempre, bisogna sempre lì a sperimentare, è un bel passaporto. Ci sono tante cose belle, però prima di ascoltare un consiglio fallo per sempre, ci sono tantissime cose, dai, prima ha fatto una bella riflessione più bella, perché se guardi su YouTube ci sono tantissimi video, tante persone che autocostruiscono, che fanno collegamenti, sono tantissime cose. Il mondo della radio è molto vasto, e quindi un pochettino a culturare, e se la mia collezione ti dà l'idea di quello che vuoi realizzare dalla fine. Sì, lo so, qualche volta mi guardo video per vedere qualcosa di nuovo, comunque io di solito prendo un, come dire, non costruisco, perché so che qui mi va male. All'inizio, perché tipo, come ho iniziato, sto usando l'antenna e la macchina, vabbè, quella non è autocostruita, poi sono passato qui in garage e avevo questo dipolo fatto in casa, praticamente è attaccato alle estremità di un palo e poi prendeva il cavo e quello andava bene più o meno perché non ne avevamo tutto. Con l'altro adesso non me ne voglio fare anche le autocostruite perché non voglio così perdere soldi che forse poi potrei anche andare male ho buttato i soldi, invece adesso ho comprato questa Blizzard e l'ho comprata su questo sito e sto andando bene con questa. E quello sì, poi giustamente dipende anche dalla zona in cui ti trovi, dalla testa che in cui l'hai messa, uno deve essere anche fortunato nella zona che muovi, lei alla fine, più spazio aperti hai, più ti trovi il più in alto possibile, guarda, anche una semplicissima antenna, fare il suo lavoro, e la questione è anche la zona in cui moduli. Sono tante piccole cose da valutare, non è? Tu prendi l'antenna più costosa del mondo, o tu ti trovi in un posto impressionante, no? E non hai risolto niente, capisci? Niente neanche appropriato nella casa in cui lo si trova per modulare, è sempre quello, più spazio aperto sei, più in alto sei, meglio è. E lì risolvi un sacco di problemi con due soldi contatti alla fine. No vabbè, sì, quello è vero, sono andato l'ultima volta quando ho iniziato, parlavo dalla macchina con l'antennino veicolare da 50 cm, che sentivano benissimo ed ero in alto, invece ecco, ero in basso e non vedevo il piccolo prima e di fatto mi sentivano più basso che rispetto a chi con la macchina con un'antenna 50, e perché là è la posizione, infatti dove andavo con la macchina vedevo tutta la cassa lì ed ero così in alto. Vedi la differenza, non è poca, abbassa un po' qua, abbassa un po' così, ecco qua. Sì, esatto, è quello, io trovo una zona impervia, veramente impressionante, bella da vedere ma per modulare dà un po' di difficoltà alla fine. Solo con una cosa e l'altra che ci si riesce a sormontare piano piano. Io avevo una grandissima antenna, non dico una delle più costose, ma eravamo quasi una via di mezzo, per carità, mi ha fatto un anno, ho dovuto prima debuttarla perché si era completamente ossidata, tra un elemento e l'altro siamo completamente saldati, vi garantisco che martello e scalpello non riuscivo a toglierla, avevamo speso 180 euro, 190 euro di antenna, mai più, finito di spendere così tanto. Proprio hai detto bene, ossidata. È proprio così, ossidata, per carità di Dio, mai più, mai più. Vabbè. Che c'è qua? Vabbè, adesso non ascolto che sto facendo delle saldature, chi c'è? Riccardino, è blu. Ah, ok. Davanti, Riccardo. Ciao Luca. Oh, forse prima di sentire stavate parlando, c'era lo room, sì. Parlando, un po' sempre sono tornato per tornare in treno, ma ho finito. E grazie di più. Qua esco con tutti. E poi? Faccio un filino di bianco, che ritiro un po' di attrezzatura, che qui è passato un tuffone, tra una chiave, un bagno, una soldatura e l'altra, tutto da sistemare, sono per nascosto, sistemo, ne rientro, faccio un po' di pulizia, se non chiamo casi, non ero. Luca, sto saldando un attimo, dimmi da lì. Ah Gianni, il mio vicino, non l'hai più sentito. Perché io non l'ho più sentito, boh, chissà cosa deve successo. Babbo, sì, chi è che mi chiama? Avanti? Ciao Roberto, salutoni. Riccardo, lo senti a Roberto? Sì, già lo sento con questa antenna. Ciao Roberto, sì, mi senti? Insomma, dai, magari sei così forte e forte, già si capisce, dai. Capazza, Natalia, lo senti tu a Roberto di Alghero? Natalia, un saluto. Però quando arrivi giù, fai dei controlli, Riccardo. Cosa? Ho detto, fatti fare dei controlli quando arrivi giù. Dove, ad Alghero? Se me lo dice Roberto, sì, non te l'avevo chiesto, però Roberto, mi dai un controllo? Sì, va bene. Sì, ma non ho capito perché non arrivi a Sorso, che strano. No, dicevo, ma Riccardino, che non arriva a Sorso. Non lo so. Babbo! Mia dollaro. Giulio, sei tu a quanto ho capito, o sbaglio? Sì, già sono io. Continua, aspettate, non lo sento a Roberto davvero, non lo sento. Luca, ci sei? Riccardo, chiedi a Roberto di Alghero se mi sente lui a me. Attento Roberto, se mi ascolti, Giulio da Sassari, ascoltalo tu o Riccardo, io non lo sento. Eia, Roberto, ti ha chiesto Giulio se lo senti. Basta, ma ti sente? Mi sente? Sì, ti sente. Io a lui non lo sento. Ciao Roberto, non ti sento. Io non ti sento. Chiedi che antenna sta usando, Riccardo. Chiedi, Roberto, quale antenna stai usando? Roberto ha chiesto Giulio che antenna stai usando. Una multibanda. Ah, una multibanda, per quello è che non arriva qua da me. Se sta usando una multibanda, ma allora non è un'antenna per la 27. Ho capito. Vai. Tutto spiegato allora. Va bene, là. Continua. Riccardo, io rimango in quadrici. Ok, Luca, ci sei ancora? Giulio, ci sei ancora? Allora, ti volevo dire, hai notato comunque, non so, forse stanno iniziando ad uscire in più, che stanno sparendo che parlavano molto, prima adesso non si sta disegnando un fatto. Perché adesso la gente può uscire da casa e dunque se ne vanno in giro le persone. Prima, siccome erano obbligati a rimanere a casa, allora non si erano fuori. Tutti quelli che avevano il baracchino messo da parte, magari anche in cantina, l'hanno tirato fuori e hanno passato il tempo parlando al baracchino. Ma adesso, siccome c'è la libertà per tutti uscire, allora se ne vanno in giro. Ecco qual è il discorso. Perché è buono, no? A Gianni, poi ho sentito il pomeriggio, poi se ne è anche iniziato. Lo so, purtroppo è così. Gianni se ne va in giro con la moto, se ne va in giro sicuramente per passare le giornate in un altro modo. Io non ho sentito più con Nicola, vabbè, non lo sentivo proprio, anche prima lo sentivo così in qualche frangente e basta, ma niente di più. Poi è sparito completamente, non l'ha sentito più nessuno. Ti volevo dire, se hai intenzione di comprarti altri baracchini, non comprare quei baracchini vintage, compratene uno che ci sia anche l'FM. Ti compri un baracchino dove c'è l'FM più la banda laterale, perché a volte passiamo l'FM e tu non ce l'hai e allora non ci puoi sentire. No, già ce ne ho un baracchino che vanno in FM. Ce l'hai tu un baracchino in FM? Sì, ne ho tre o quattro. E hanno un FM? No, perché con le fotografie che hanno mandato tu non ne hanno FM. Perché ne ho alcuni di lato, un altro bancone con diversi baracchini. Ah, ho capito, beh, allora vabbè. Comunque hai anche l'accordatore d'antenna che ho io, il TM1000, quello con lo strumento con due display. Sì, uno per il watt e uno per il rosmetro. Sì, ce l'ho anch'io quello, TM1000. Non della stessa marca, ma tu stai parlando di rosmetro o di trasmetti? Trasmetti, è un rosmetro, rosmetro e il wattimetro, e più è anche accordatore antenna. Fa tre cose, fa quello strumento. Ah, ho capito, sì, sono qui avanti, la società di TM1000. Sì, TM1000. Fa tre cose. Ad esempio, se hai l'antenna con delle stazionarie, tu puoi attaccare quello e con la mano oppure ti regoli e ti abbassi le stazionarie come vuoi tu, cioè a 1 e 1. Ecco come. Poi dietro c'è la possibilità di attaccare anche due antenne, infatti ha l'interruttore numerato, antenna 1 e antenna 2. Sì, lo so, anche quello un pochino più moderno, più piccolino, il Transmet, l'HP1000. È uguale, è lo stesso strumento praticamente, è un'altra versione che poi l'hanno modificata, però prima è il Transmet TM1000, poi l'hanno fatto HP1000. Questo è un po' rovinato, già non era così, poi era un po' all'unità e se ne siamo unificati ed è anche un po' strozzato, però di solito se lo uso HP1000, che funziona anche meglio. Se è oscillato non può funzionare, certo, quello sì, lo so. No, ma è uguale, guarda, intanto anche quello, anche l'HP1000, anche quello è un accordatore antenna, lo stesso, anche quello fa l'accordatore antenna. Va bene, lo stesso, praticamente ha le stesse caratteristiche del Transmatch 1000, dunque non è un po' differente come potenziometro, il comando, eccetera, però la funzionalità è sempre quella. Ho capito, aspetta che mi sa che provo ad attaccarlo, che voglio vedere quanti watt ho, perché non so neanche questo point con quanti watt sto usando. Ok, mettiti un rosmetro, un wattimetro che funzioni e poi accorgi, fai la calibratura e poi vedi un po' sia il ROS che il watt. Sì, ok, un attimo che lo attacco adesso che attacco l'antenna da dietro. Ok, lo sai usare, sì. Se non lo sai usare dimmi cosa stai usando, te lo dico io come devi fare. No, lo so usare. Va bene. da San Tornato. Sì, hai controllato? Sì, ho controllato. Come si è messo? Sono di 5 watt. Ma non l'ho immaginato. Dal segnale non l'ho immaginato che è quello. Il wattaggio, 5-6, non di più. Come stazionali? No, stazionali è basse, 1.1. 1.1 sarà, dai. 1.1, 1.2 massimo, 1.1 sicuramente, perché non esistono antenne che è sotto 1. E 1.1, le antenne vengono costruite per avere 1.1 di ROS, e cioè di cose stazionali. Tu sentirai tante persone che dicono, ma mia, manco si muove l'ago. No, non è così, l'antenna ce l'ha, 1.1 ce l'ha per forza. Se non si muove l'ago evidentemente perché non è preciso nello strumento. Comunque devi tenere in considerazione sempre che sia per il watt che per il rosmetro, e cioè per il ROS, c'è sempre una percentuale di variazione in più o in meno, di almeno un 5-10% a secondo dello strumento che stai usando. Io so che alcuni hanno detto appunto il numero, ma infatti me l'ha anche spiegato Roberto un po' di tempo fa che come hai detto tu, con 1.1 non c'è nessuna antenna. No, perché tu sentirai per questa tante persone che dicono il lago nemmeno si muove, lo direi, vabbè, se non si muove il lago è perché evidentemente non è il rosmetro, non è come si dice, perché è così, vabbè, dai, comunque se te lo detto, perché già in partenza l'antenna viene costruita con 1.1 di stazionale, il che significa il massimo della qualità. California, questo è un rapporto, me lo dai giù per cortesia. Il tuo rapporto è sempre buonissimo del radio, e quello che non è buono è il segnale, vabbè. Il segnale è sempre intorno ai 5, però la radio è a bomba, anzi è a bomboletta. Non so Giulio, è sicuramente l'antenna, comunque dai. Sto pilotando sempre con la via 27L, vabbè. Ok, no, mi interessava la radio, se era buona, se era pulita, se c'aveva problemi. Non hai mai problemi con la radio. È difficilissimo. Come la sobbia? Che non stai facendo delle prove, allora di questo. Ma quando esce questo che entri frequenza per modulare, la tua radio, io la sento sempre molto bene, è abbastanza forte. Quello che non mi meraviglia è, vabbè, tu me l'hai spiegato altre volte, che sei in una vallata, in un posto un po' basso, e dunque il segnale 5 solamente. Cosa che altre persone che arrivano con il tuo stesso segnale, alle volte non riescono nemmeno a sentirlo. Perché? Perché il QRM molte volte è più alto della radio. Ok, grazie Giulio, potrà cambio, no, radio 5 è qua. C'è stato un break, avanti. Già vedo più il numero, avanti. Un controllino per favore, Radio Santiago, sto provando una radio che la forma un po' di tempo.